Vi siete mai chiesti perché abbiamo due orecchie e una bocca? Qualcuno dice perché non dovremmo mai dimenticare che è molto più importante ascoltare invece che parlare. Effettivamente l'ascolto è un dono inestimabile e molto molto raro. Dite la verità, quante sono le persone dalle quali vi sentite proprio veramente ascoltati? E non intendo soltanto che mentre parlate non vi interrompono, il che è già qualcosa, ma intendo che vi sentite veramente ascoltati e capiti nel profondo. Ci sono persone che sono disposte a fare anche centinaia di chilometri per trovare finalmente una persona che li ascolti davvero. Anche tu puoi fare questo dono agli altri, ma ci sono alcune condizioni fondamentali che non dovremmo mai dimenticare. Numero 1. Quando parli con qualcuno, non fare altro. Potrebbe sembrare una cosa scontata, ma se ci pensiamo un attimo, non lo è affatto. Se puoi, silenzia il cellulare. Non è molto simpatico quando stai parlando con qualcuno e gli arriva una notifica, subito lui lo prende, va a leggere e magari si mette anche a rispondere. Vuoi ascoltare veramente quella persona? Posa il telefono, posa il tablet, posa il giornale, posa il telecomando, le chiavi della macchina, posa tutto quello che hai in mano in quel momento e guardala negli occhi, sii presente. Numero 2. C'è qualcosa di molto più difficile da posare. Sono i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, quello che ci passa per la testa. Lascia andare anche quello. Lascia andare quel problema che hai appena avuto sul lavoro. Non pensare a cosa cucinerai per cena, neanche a quel libro che stavi leggendo o a quella serie di cui stai aspettando la prossima puntata. Per lasciare andare tutto quello che ti sta passando per la testa, prova a concentrarti sul tuo respiro, per poi concentrarti su quello che l'altro ti sta dicendo. Numero 3. Rivolgi il tuo corpo verso la persona che stai ascoltando. Tanti anni fa mi sono accorto che spesso ascoltavo le persone con il corpo già rivolto in un'altra direzione, lasciando ben intendere che se ero fisicamente presente lì, in realtà la mia testa era già molto lontano. Incontri una persona e hai tempo di parlare qualche minuto con lei? Fermati, mettiti di fronte a lei. Prova a far caso a quale posizione il tuo corpo assume. Sei rivolto verso di lei oppure la tua posizione dice che vorresti già essere altrove? Immagina di avere davanti a te in quel momento la persona più importante del mondo. Guardala, rivolgi verso di lei non solo il tuo ascolto e la tua attenzione, ma anche il tuo corpo. Stai lì con lei, ascoltala, fai soltanto quello. Ascoltare in modo attento è un dono inestimabile, non soltanto per capire quello che l'altro ti sta dicendo e per fargli capire che tu sei lì veramente per lui. Anche perché, come diceva Peter Drucker, nella comunicazione la cosa più importante è ascoltare ciò che non viene detto.